esatto, voglio essere abbastanza breve, però per scendere sul carcere, due cose, veramente due. Quando abbiamo scritto quel testo non era ancora stata varata la legge sulla droga, che invece è appena passata come parte del pacchetto Olimpiadi, no? Uno stratagemma incredibile, però è passata. Vorrei legare il passaggio di questa nuova legge con invece il lavoro in carcere, un altro elemento che è abbastanza nuovo per la realtà italiana, cioè è stato reintrodotto dopo anni nella realtà italiana, e che vogliamo bene capire come si andrà a sviluppare. Vi dico questo perché l'altro video che ho portato, che si chiama USA Incarcerated, è sul Prison Industrial Complex, ovvero sul stretto rapporto tra società private e giustizia criminale, comunque complesso il bureau delle prigioni e le industrie private, e le strette relazioni che ci sono, per cui il prigioniero è bene che ci sia, è bene che ce ne siano un alto numero, perché diventano una manodopera a costo zero che produce prodotti che entrano direttamente nel mercato e sono competitivi con quelli prodotti all'esterno, che inevitabilmente, avendo una manodopera più cara, sono più alti. E per cui si crea questo circolo vizioso per cui è bene che ci sia un prigioniero, più ce ne sono meglio è, più carceri ci sono, meglio è per le comunità rurali soprattutto, che sono in piena crisi economica, per cui questa è la realtà negli Stati Uniti. In Italia non posso dire che sia così, dobbiamo vedere come si sviluppi, però ci sono delle linee di tendenza che si vedono in quell'articolo, che ringrazio ancora Ale e Gianluca di averci fatto alla fine scrivere, perché è venuto fuori da una richiesta loro, ma è stata una cosa veramente importante come razionalizzazione, e dai due video che ho portato. Legge sulla droga, cosa significa? Significa che nonostante le cazzate che dicono che con uno spinello non si va in galera, se è vero non si andava neanche adesso, perché passare da amministrativo a penale? Allora, il passaggio da amministrativo a penale non farà altro che a breve creare un numero incredibile, soprattutto di giovani, ma non solo, di persone, di individui, che saranno sotto il controllo del sistema repressivo e comunque sotto il sistema penale. Questo numero incredibile di persone, benché vogliamo credere che non tutti andranno in galera per il semplice consumo e quant'altro, io non ci credo, però diamolo per buono, ci sarà comunque una crescita esponenziale di persone che avranno a che vedere col carcere, proprio direttamente col carcere, in una situazione in cui, lo sappiamo tutti qual è la situazione di vita adesso, di sovrappopolazione che ci sono nelle carceri, si spingeranno, ma sono già programmate, 22 carceri nuove che nella logistica hanno al loro interno già degli impianti industriali. Ora, come dicevo, bisogna guardare, inutile giudicare precedentemente, però se gli Stati Uniti sono l'esempio, come lo sono in molte altre cose, della globalizzazione a livello economico, ma anche del controllo e della repressione, pensate solo alla lotta al terrorismo, se è vero tutto ciò, ci stiamo avvicinando, stiamo ripercorrendo la stessa strada che sta percorrendo gli Stati Uniti, che non ha intenzione di eliminare, perché l'industria delle prigioni è la terza industria in espansione negli Stati Uniti, e in questi periodi di alti e bassi dell'economia, anzi di crisi vere dell'economia, l'unica industria che è continuata a salire con percentuali di due cifre è quella delle prigioni. Per cui io con questo termino, nel senso, secondo me è molto preoccupante la situazione, è giusto parlare di carcere, è giusto parlarne sempre di più perché riguarderà sempre di più persone. Ascoltavo con attenzione il discorso che faceva Gianluca prima sul rapporto con persone che hanno vissuto direttamente o che più o meno direttamente hanno vissuto il carcere. Secondo me sarà sempre più difficile questo tipo di realtà. Secondo me il carcere farà sempre più parte della vita di ognuno di noi, e questo senza andare a arrivare agli estremi del vedere il carcere come un muro che divide in realtà la minima sicurezza dalla massima sicurezza, perché a livello di controllo è difficile dire, io non conosco nessuno. Assolutamente, ci sarà sempre più gente, e a questo poi aggiungo. Vogliamo considerare il muro che separa l'interno, cioè degli esclusi, dai nostri occhi, ma prodotti attivi della società, perché sono costretti a diventarlo, perché se non lo fanno ci sono ovviamente chiare ripercussioni. Un mondo interno che io posso considerare una prigione ad alta sicurezza, e il mondo esterno, cioè la nostra società, noi, come una prigione a bassa sicurezza. Perché comunque il livello di controllo che c'è e che si sta allargando, perché le maglie cioè, si stringono ma la gettata si allarga, è molto preoccupante. Dopodiché concludo, ma credo che più se ne parli meglio sia, e in più forme se ne parli, da più punti di vista, da più prospettive se ne parli, meglio è. Grazie.